Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Non so quanti esattamente se lo ricordino o diano un senso a questa ricorrenza, ma oggi è il mercoledì delle ceneri. Oggi è il giorno in cui tradizionalmente, nella nostra cultura, ci si dedica alla mortificazione. Ho presente un fantastico film in cui Alberto Sordi, vestito da donna, si trascina dopo un martedì grasso di crapula, e immagino sempre il mercoledì delle ceneri come questa sorta di coda lunga di un carnevale arrivato alla sua fase terminale, alla sua fase ultima, ancora con i coriandoli tra i capelli, con i segni evidenti della crapula sulle proprie carni, si andava in chiesa e ci cospargeva il capo di cenere e si dedicava un istante alla riflessione sul fatto che in fondo noi non siamo proprio nulla, siamo semplicemente qualcosa che finirà, passerà, non lascerà traccia, perlomeno questo per la maggior parte di noi, per la parte precipua di noi. Quindi oggi mi piacerebbe riflettere sul concetto di mortificazione. Oggi nessuno pensa più di mortificarsi, magari ci si umilia, magari ci si prostra in una sorta di leccaculaggio estremo e non si sente vergogna per questo. Ma la mortificazione è un atto estremamente eroico, estremamente virile, anche se soprattutto se fatto da un uomo. L'uomo che si mortifica è un uomo consapevole dei propri limiti come consapevole della propria illimitatezza. Sapersi mortificare è un'arte perduta. Conoscere la ritualità di dare senso alla mortificazione, quindi al riconoscimento della propria limitatezza, è una promessa e una speranza per essere perennemente illimitati. Oggi vorrei proprio dedicarmi a questo. Siete capaci di mortificarvi, di dedicare un istante alla vostra mortificazione? Oggi che la pubblica mortificazione dovrebbe essere ciò che viene celebrato sulle prime pagine dei giornali, senza ricordare che avviene proprio il mercoledì delle ceneri, che è la pubblica ostentazione, dichiarazione dei possedimenti, delle dichiarazioni, dei redditi dei ministri che ci governano. È come se ci fosse un simbolico dimostrare da parte della classe dominante, dominante nel senso che amministra il potere e amministra giustamente, lecitamente, democraticamente il loro potere, dimostrare quello che loro hanno, quello che loro posseggono. Il loro mercoledì delle ceneri è semplicemente farci vedere il loro 740. E qual è il nostro mercoledì delle ceneri? Quanto sarete capaci questa mattina di darmi un istante di mortificazione? Di quale residuo sarà composta la cenere che voi vorrete spargervi sul vostro capino meditabondo questa mattina? 800240024. Dice Sant'Ignazio che per meglio vincere ogni disordinato appetito, se si è tentati di mangiare in eccesso, si dovrà digiunare. Ebbene, amici, io digiunerò. Voltrano, che hai voluto dire? Quello che ho detto. Ti conosciamo, tu alludi ad altri modi di mangiare. No, infatti io digiuno, seguendo il consiglio del santo. Perché non digiuni anche tu e tutta la tua corrente? Perché non digiuniamo tutti? Che ci farebbe anche bene. Non abbiamo forse... Erano altri tempi, quelli raccontati in todo modo, in cui la classe politica quasi sacerdotale si chiudeva il ritiro spirituale, si parlava di digiuno, di astinenza dalla carne. Quanto voi oggi saprete astenervi dalla carne? Guardate che dire io non mangio carne oggi è quasi un must, una dichiarazione di essere a passo coi tempi. Io solo cucina vegana e quindi non mangio carne, non mangio latticini, non mangio derivati di origine animale. Ah, che bravo, che bello. Non mangiare carne, astenersi dalla carne, significa qualcosa di molto più profondo, di molto differente. Giuseppe Sanson. Buongiorno. Rinuncerai alla carne? Non credo. A Satana e le sue pompe? No. Beh, allora di cosa stiamo parlando? Non rinuncio a luna. Siamo entrati nell'atmosfera claustrale dell'albergo Zafer, dove impegnati negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola troviamo tutta la DC trasfigurata dalla metafora pulsante di Elio Petri. Qui abbiamo altro che pubblicare la dichiarazione dei redditi. Sì, sì, qui si va più nel profondo, nell'anima nera di quei tempi e del potere. Qui c'è un Ciccio Ingrassia che di fatto nella vita aveva sperimentato la fame, perché quando Franco lo vedeva mentre faceva la posteggia e vedeva questo spilungone magrissimo che saltava i pasti per fare teatro, dice: ah, quella ha proprio la faccia da morto di fame, diceva Franco guardandolo, e lì nacque l'intesa. E qui invece anni dopo viene recuperato dal cinema autoriale per diventare metafora di una sorta di lupa dantesca che dopo il pasto ha più fame che prima. La sua fame è metaforica, una fame di cibo, di denaro, di potere, che viene espiata attraverso l'autoflagellazione e il digiuno, come vedremo, che porterà poi all'estinzione. Era una reale e concreta autoflagellazione, non era il presunto cilicio della Binetti, non è la presunta astinenza sessuale di Formigoni. Lì veramente... Sono inezie, folklore. Si flagellava. Faceva appunto un monaco di altri tempi. 800 24 00 24, avete capito qual è il cammino di questa mattina? Il cammino della mortificazione. Franco, buongiorno. Buongiorno, io la sento sempre tutte le mattine, stamattina ho voluto partecipare. Io da tantissimi anni, da quest'oggi fino al giorno di Pasqua a mezzogiorno, sono fumatore e non fumo più. Mia moglie invece da oggi fino al giorno di Pasqua non mangia più dolci. Quindi voi fate realmente una vera quaresima come si faceva una volta? Sì. Ma questo ha un senso religioso, un senso etico, semplicemente ormai è una tradizione che vi piace continuare a portare avanti nel tempo? Allora, ci piace continuare a portare avanti nel tempo, e poi credo che questo possa essere la volontà sopra a qualche vizio, che sono importanti. Vabbè, ma ci guadagnate, scusi, lei puzza meno di fumo, sua moglie ci guadagna in giro vita, va meglio per tutti e due. La via dell'ascesi, la via dell'ascesi. Non è così semplice, insomma, è una cosa che per il primo giorno... Cioè vi costa sacrificio reale? Assolutamente sì, perché per un primo periodo, diciamo che la mancanza o del fumo di questi dolci, che fanno parte poi anche della gradevolezza della vita, non è facile, perlomeno per la prima settimana 10 giorni, poi diventa un po' meno complicato, ma i primi 10 giorni si sente questa mancanza. È interessante perché... quello che voi fate e raccontate questa mattina è qualcosa di veramente arcaico, quindi per questo mi interessa e mi crea suggestione. Oggi chiunque può affidarsi al martirio di un dietologo, può soffrire. Oggi l'anoressia è uscita dal dominio della mistica, è diventata una pratica viziosa quotidiana. L'astinenza dal fumo, lo smettere di fumare, è considerato come il curarsi una patologia. La vostra è una scelta di tipo diverso. Voi veramente toccate con mano quello che è il territorio liminare dell'ascesi, quindi dell'esercizio, del lavorare su se stessi. Antonio invece. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche lei si mortifica da oggi? Ma assolutamente le mie non sono mortificazioni spirituali, ma come lei ben diceva sono materiali. Cioè si fustiga e cammina sui chiodi, cosa fa? Assolutamente no, quello che mi mortifica è vedere questa società che è governata così in modo vergognoso, è questo che mi mortifica. Vabbè, ma questa, scusi, che sacrificio fa lei? Fa il moralista agli altri e dice delle banalità, piove governo ladro, dov'è la mortificazione? Parli di lei, parli dei suoi vizi, dei suoi limiti, e si penta lei e li metta lei in piazza. Io faccio il predicatore questa mattina, questo è il mio ruolo. Assolutamente non ho nulla da che mortificare. Lei è un santo, quindi si crede un santo, si crede l'uomo perfetto. Ma lei è che è soltanto cenere, soltanto polvere. Sono l'espressione di questa società, di questa società. Lei dà colpa alla società di quelli che sono i suoi vizi. Ma non penso di avere dei vizi, guardi. Lei come pensa di essere perfetto? Qual è questa sua presunzione? Chi è lei? Forse Dio si crede d'essere? No. Guardi. Si penta, si cosparga il capo di cenere, si vergogni. Ben detto. T'avevo detto che sarei tornata, e questa volta è l'ultima. Vado retro, Satana. Non vado né avanti né indietro, ma resto. Abominevole spirito delle tenebre, se il Signore ti permette di tentarmi dovrò sopportarti, ma non otterrai niente. Mi ripugni e fino a me arriva il fetore del tuo alito. Neppure tu hai un buon odore. Preparati, Simon. Andiamo a fare un lungo viaggio. Molto lungo. In nome di Cristo. Non fare quei gesti con la mano, perché questa volta non ti serviranno. Simon del deserto, anche se sei un uomo, tu e io ci differenziamo molto poco. Io credo come te in Dio, Padre onnipotente, poiché ho goduto della sua presenza. E in quanto al suo unico figlio, ci sarebbe molto da parlare. Ecco, questa è una prova tangibile di quanto l'anima surrealista, che era senz'altro viva in Louis Buñuel, era fortemente attratta, trovava la surrealtà come elemento e scaturigine profonda nella metafisica assoluta, nel barocco. Questo Simone del deserto in realtà è qualcosa che seriamente può essere preso come una lezione di vita, di etica, però la faceva un regista surrealista. Hai detto bene, perché era un'ossessione che Buñuel aveva fin da ragazzo, dei tempi della residenza, quando ne fantasticava con García Lorca, con Dalí, intorno alla vita di questo Simeone lo stilita vissuto nel V secolo. E quindi immagino che un monaco ne ripercorra la stessa vicenda. Negli anni 60 fa questo film in cui Simone sta su questa colonna e viene sottoposto alle tentazioni continue del diavolo, che ha le forme flessuose e insinuanti di Silvia Pinale, la bellissima Silvia Pinale, che riuscirà di fatto, il film poi fu interrotto per mancanza di soldi, perché riesce a sottrarlo alla sua colonna e lo porta al Greenwich Village, ne fa un esistenzialista e lo porta in questo sorta di locale dove ballano al ballo con la musica Carne Radioattiva. Però nel seguito del film, che non si fece per mancanza di soldi, il diavolo in forma di Silvia Pinal si sostituiva a lui, e questo è un po' un riferimento a Wilde, alla Santa Ingioiellata, un dramma che non riuscì a finire, in cui c'era appunto questa prostituta che andava davanti allo stilita e innamorata di lui, però i due non si incontravano, lui si perdeva e lei saliva sulla colonna, cioè, quindi non riuscivano a incontrarsi, lei innamorata del suo sprofondare nell'estasi mistica e lui che invece cedeva la carne, quindi questo mancato incontro. Diciamo che è il classico binomio. Quando si parla di stiliti si parla di padri Zicasti, che è una corrente cristiana del terzo secolo. Questi monaci andavano nel deserto della Siria, della Palestina, improvvisamente si rendevano conto che il cristianesimo era qualcosa che rischiava di scolarizzarsi e andranno allo spirito prigionino. Stanno nel deserto, riflettevano, pensavano, diventavano folli e avevano naturalmente le visioni. Il diavolo era il primo a presentarsi a loro come Sant'Antonio del deserto. Si presentava sempre sotto forma di donne bellissime, carnose, con cornucopie da cui uscivano i cibi più fantastici, e i santi resistevano. Ma in questa resistenza, in questo binomio, è logico che l'animo poetico, l'animo surrealista coglieva un binomio di fascinazione. Il diavolo si affascinava della resistenza di quest'uomo così forte, della comprensione, la sua capacità di resistere, e il padre del deserto comunque, a forza di guardarlo, probabilmente cominciava a capire che non era proprio tutto da disprezzare, o perlomeno si appagava della contemplazione, della fierezza di saper resistere a quelle tentazioni. Claudio, buongiorno. Salve, buongiorno. Abbassi la radio. Per favore. C'è un eco mistico. Sì. La fuga dalla lusinga di risentirsi perpetrato in un eco. Assolutamente, anche perché sto parlando con un viva voce, per cui è facile di sentire la mia stessa voce. Allora, come lei si mortifica questo mercoledì 13? Ma io credo semplicemente di aver ritrovato un attimo il coraggio di elencarmi i difetti, ne ho avuti molti nella mia vita e pian piano da un po' di anni a questa parte. Ma lei non ama i suoi difetti? Diciamo che io sono stato abituato ad essere piuttosto rigido per problemi di educazione, per problemi di collegio, sono stato dai gesuiti, eccetera, eccetera. Ma al di là di queste cose che fanno parte della vita privata. Quindi dai gesuiti comunque faccia parte della didattica il mercoledì delle ceneri. Accadeva alle Salesiani, figuriamoci dai gesuiti. Sì, non... Di andarsi a incenerire la mattina. Assolutamente, assolutamente, ma addirittura le punizioni corporali. Però adesso. È stato fustigato lei? È interessante. Sì. Io non ognuno ha i suoi metodi. Questo però, diciamo, adesso in età adulta, che ha una capacità di giudizio e quindi di autonomia, come giudica questo passaggio rigido della sua adolescenza? Gli ha dato allora qualcosa in più rispetto alla normale percezione che vede attorno a lei dell'esistenza, del nascere, del vivere, del morire, del valore da attribuire alle cose? Se dovessi riferirmi al tipo educativo, direi che la rigidità forse serve spesso, comunque a irrigidirsi anche nei confronti del rapporto con gli altri. Secondo me lo sa, Claudio, la rigidità che si subisce in età giovanile, adolescenziale, come educazione, se uno riesce a fare un guizzo, ti insegna ad apprezzare la flessibilità in maniera estrema. Verissimo. semplicemente vero. Che la vera flessibilità non è quella del lavoro, la vera flessibilità è la capacità di sovrascrivere ogni giorno la propria opinione e il proprio giudizio. Di potersi giudicare, perdonare, ma soprattutto di saper perdonare anche gli altri, i torti che fanno gli altri, rimanere con un sorriso anche verso gli altri. Ecco, lei, allora, andiamo al punto materiale. Qual è il senso concreto che dà la sua mortificazione? Questa volta, dato che, lo dico perché ci deve essere, io collego sempre alla realtà, sono un pragmatico da questo punto di vista, collego la realtà della vita alle mie azioni, quindi significa, sono ingrassato di 8 kg, bene, dobbiamo dimagrire, bene, è il mercoledì delle ceneri, non mangiamo carne, ma non per dimagrire e basta, perché ci sono mille altri metodi, faccio palestra, faccio tante altre cose, ma semplicemente per ritrovare una pulizia interiore da un punto di vista medico e anche psicologico. Quindi lei non mangerà carne fino a Pasqua? No, anche dopo. Ah, smette per tutta la vita? 10 anni fa ho deciso di non fumare fino a Pasqua. Bene, 10 anni fa ho smesso di fumare, non ho più toccato una sigaretta. Quindi vede però che esiste la necessità di dare una sorta di mappa quasi liturgica alle nostre scelte. Se non ci fosse il mercoledì delle ceneri, si andrebbe nel solito domani inizio la dieta, domani comincio a fare qualcosa. Oggi è il giorno adatto per iniziare di smettere di fare qualcosa, dando un senso al sacrificio, ma ne cogliamo anche l'aspetto reale, concreto e proficuo per noi. Lola. Pronto? Sì. Buongiorno, io chiamo dall'Aquila e da oggi praticamente il mio fioretto sarà non mangiare pizza, dolci e fritti. Ma questo lo dite perché avete sentito me questa mattina o ci avete già pensato prima? No, io lo faccio già da qualche anno. E quanto dura? 40 giorni? Da quando mi sono trasferita qui all'Aquila, perché da noi in Puglia, diciamo, non c'è molto questa tradizione del fioretto, mentre quando mi sono trasferita qui all'Aquila ho sentito più di una persona che lo faceva e ho pensato pure io di farlo, come esercizio spirituale principalmente, perché essere capaci di fare a meno di qualcosa a cui ci tieni parecchio è difficile, ci si prende in giro. Lola, l'esercizio spirituale, uno può dire a se stesso quello che vuole, quando uno agisce sul proprio corpo in maniera concreta ha la prova quotidiana, visto che siamo fatti di carne, vogliamo prove concrete. Sì, però se tu tutte le mattine devi fare la pizza e poi non la mangi... A lei fa la pizzaiola e non può mangiare la pizza. sì, io ho una pizzeria al taglio, le faccio tutte le mattine, però da oggi non la mangio. Un supplizio di tantalo, è ancora più forte la sua mortificazione e ancora più meraviglioso sarà il premio che ne avrà il giorno di Pasqua e potrà scrofanarsi quanto vuole. Io aspetto la mezzanotte del sabato santo, della domenica, e affila i coltelli per i poveri agnellini che stanno lì sperando che le venga in mente di continuare il suo digiuno. Sansonna. Sì. No, infatti secondo me questo risponde a un'intima necessità di rito, a parte la sublime, la perversione quella di fare pizza e poi non mangiarla, però in generale, al di là dell'aspetto liturgico, c'è un rito intimo a cui uno risponde, la necessità di un rigore che possa, insomma, alimentare e scandire il tempo della nostra vita. Questo è interessante come aspetto. Mi piaceva anche la rielaborazione dell'altro ascoltatore del rigore gesuitico passato. Sì, però esistono anche forme più concrete, più evidenti, più classiche di mortificazione che ancora non ho visto elencare dai nostri ascoltatori. Mi raccomando, potete andare anche oltre. 800 24 00 24. Mi chiamo Simeone e sono nato in Cilicia, terra benedetta dal Signore. All'età di 30 anni, giunto nell'operosa città di Antiochia, vidi una colonna alta 12 metri. Per fuggire i mali del mondo, su questa colonna salì e lì vissi per i miei restanti 33 anni, in preghiera. Per questo fu chiamato San Simeone l'Ostilita, nei secoli dei secoli. Da capo. Mi chiamo Simeone, eccetera, eccetera. A 30 anni sono salito su una maledetta colonna e non sono sceso più. Basta! Qui invece, Sansonna, ci troviamo nell'irrisione della mortificazione, l'irrisione di una figura che merita tutto il rispetto, una figura scimmiottata e malamente rappresentata, Celentano nell'ultimo Sanremo, non per tornare su argomenti, ha finto a se stesso, al mondo, di essere qualcosa come Simeone lo Stilita. Si può gridare dal deserto, si può chiedere anche ai ministri della fede: pentitevi, occupatevi del vero Dio. Quando si vive su una colonna da 20 anni, quando si sta nella propria villa, non si può fare. Sì, sì, ma Celentano appunto sono anni che si pone come una sorta di questo messia un po' scimmiesco e sensuale, però io ho trovato quasi... Si è lamentato il parroco della sua parrocchia che non dà nemmeno un centesimo quando va a messa. Sì, sì, al di là di questo però io ho trovato sublime, perché poi il linguaggio ci trafora. No? Da Monty Python, il suo monito fatto all'avvenire a Famiglia Cristiana, a soprattutto occuparsi non dell'attualità ma dei progetti di Dio. Cioè, bellissime queste riunioni di redazione che si occupano dei progetti dell'imprescrutabile, è meraviglioso. Cioè, c'è del genio, involontario rigorosamente, però c'è del genio. Invece, tornando al Papocchio, sì. Nel Papocchio, la scena strepitosa che abbiamo ascoltato è che l'impossibilità del martirio della religione vissuta intensamente nel tempo presente viene rielaborata da Arbore con queste monetine infilate da Andy Watt nel santo, una sorta di giostra infantile che ripete come appunto un disco incantato, ripete il proprio essere, la propria piccola biografia, la sinossi della propria biografia, e fino a stancarsene, anche la macchina se ne stanca, perché l'Otto infila continuamente questo gettone come se fosse a Luna Park. 800240024, avete ancora pochi istanti per pentirvi in silenzio, poi cominciate a fare la vostra professione di mortificazione dopo le informazioni della borsa. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Taluno, cui sufflai nell'orecchio lo peccato meo, perse lo senno, se ne fuggì ululando e ancor si fugge. Ed pertanto l'inferno che m'attende non ave strazi bastevoli per me. Ed però rincaro da me stesso la dose in attesa della morte che ben si venga. Non facciamo nomi! Ancora che bello male, grazie. Basta ciacolare. Pattume, sia lo mio nome. Sia, ti prendo nell'armata. Addetto alle mondezze. In marcia! Rancia! Oh. Ancora sì! Ricchio, ciao! Vai! Danca, danca, danca! Leon, leon, leon! 800240024, quale dimostrazione più sublime dell'estremo masochismo, dell'autoflagellante, del battiente proietti in l'armata Brancaleone, assunto e arruolato come mondezzaro per renderlo ancora più felice nel suo ruolo di voler essere mortificato. Sì, diventa pattume nelle crociate immaginarie sull'asse Gassman Monicelli, ma tornando appunto a questi flagellanti, in realtà persistono nella nostra società, nelle processioni della Settimana Santa. Sì, vabbè, quelli sono rituali locali che però hanno una forza, cioè, per avere un posto all'interno della processione c'è tutto un rituale che coinvolge tutto l'anno. A Taranto, per esempio, me ne ero occupato per un documentario, si oscilla tutta la notte a piedi nudi, nazzecando, cioè avanzando lentamente coi piedi sull'asfalto, portando tutti incappucciati, quindi c'è, persiste comunque una forma arcaica di religiosità arcaica che rimane appunto nell'oggi. Sì, per lì è una, all'interno della comunità c'è un gruppo di persone che prende su di sé il carico della mortificazione, il battiente, quello che sanguina, con una specie di spugna piena di aghi, si batte quello il petto. A Guardia San Framondi, sì, quello accade, quello ogni 7 anni lo fanno. Sì, finché non cola sangue, sì, sì, e sì. Del sangue di questi eletti si abbeverano. In estasi anche alcolica prima di arrivare a questo. Beh, vorrei vedere, prima per sanguinare così non è che sia una cosa che dà gusto, a meno che uno non sia radicalmente masochista. Però noi stiamo osservando un moto nascosto, non percepito, non registrato nella società contemporanea. Ci sono tante persone che stanno chiamando, per nulla meravigliate di quello che potrà sembrare una facezia, una delle tante provocazioni, dicono: no, da oggi io realmente inizio una mia personale scelta di mortificazione. Quindi esiste ancora il senso della mortificazione. Io dissi all'inizio che oggi mortificarsi è un esercizio sociale, ci si mortifica per essere accettati, ci si mortifica per sgusciare subdolamente attraverso le maglie della società e acquisire posizioni di dominanza o di rilievo. No, invece si mortifica nel silenzio, nella scelta personale di un'ascesi, per essere migliori forse. Patrizio. Buongiorno. Lei si mortifica? No, io non mi mortifico. Io vorrei dire che questa cosa del mercoledì delle ceneri e quindi della quaresima è una cosa prettamente della Chiesa Cattolica. Certo, chi l'ha mai negato? Che per tanti versi insomma modifica un po' quello che è il messaggio di Cristo che lei si propone di promulgare. Vorrei dire che io non sono un predicatore, io registro, racconto. No, oggi è una giornata che tradizionalmente era dedicata al cospargersi il capo di cenere e fare un proposito di mortificazione per 40 giorni. Questo secondo me non ha senso. Anzi, no, ha molto senso perché è una fede religiosa, ha moltissimo senso. Perché non ha senso? In assoluto non può dire non ha senso. È relativo il senso, per chi ci crede ha un grande senso. Ma dunque il messaggio di Cristo è un po' diverso. Sì, vabbè, adesso non faccio al Celentano dei poveri qui da me. lasci dire o lo dica come quando vuole in alto. Qual è il suo punto di vista? Secondo me un esame di coscienza ha fatto più spesso che qua non è un esame di coscienza, è un atto mortificatorio. Mortificatorio secondo me non ha senso farlo in questo periodo. Cioè perché ha senso? Quando avrebbe senso farlo? Mortificarsi mai. Cercare di migliorarsi sempre. Ho capito, è giusto questo, ma sto spiegando che nell'iter di un cammino spirituale, ma in qualunque religione, esiste un momento in cui si fanno i conti con ciò che ci piace, con ciò che ci alletta, con il nostro corpo, che è un fardello di cui bisogna liberarsi per che sprigioni lo spirito e si ricongiunga con quello che è la fonte primaria dell'esistenza. Ecco, questa è la sintesi di ogni cammino spirituale. Nella pratica cattolica si dice il giorno di Quaresima comincia a riflettere, comincia a rinunciare a qualcosa, comincia a pensare che non è importante quello che per te è importante. Questo ha un senso. Se per lei non ha senso, va bene, rimanga dalla sua opinione. Marcello. Salve, buongiorno. Sì. Io pratico questo tipo di mortificazione in maniera un po' più sistematica, probabilmente, quindi non dandogli un'accezione religiosa, ma secondo me per fortificare un po' la disciplina, suppongo che sia ugualmente. Anche in Karate Kid si fa, anche in tutti i film di Kung Fu, esiste il momento in cui uno deve. La Quaresima di Bruce Lee. Bruce Lee deve dare i pugni dentro una tinozza di carboni arroventati, si fa di tutto per fortificarsi. Esatto, infatti voglio dire, io in genere tengo sotto controllo tutto quello che prende il sopravvento nella vita, anche cose piacevoli naturalmente. Faccio un esempio di cosa che prende il sopravvento. L'alcol, piuttosto che il fumo, piuttosto che quello quindi quando mi sono sempre comportato. Anche la serpe lussuriosa la tiene ogni tanto a assolutamente, sì. Giustamente. Certo, esattamente. Quindi tutto quello che diventa preponderante nella mia vita e chiaramente per tenerlo sotto controllo mi mortifico, quindi faccio un esercizio di coscienza e mi impongo il divieto di quella cosa. Ma questo perché lo fa? Perché dopo dà più gusto rifarlo quando uno si è fermato. Assolutamente sì. La cosiddetta ripresina. Questo fa parte questo delle tecniche per vivere meglio. Ma non è detto che la mortificazione che ha un senso religioso non abbia però un senso di riapprezzare meglio ciò a cui si è rinunciato prima. Mario. Buongiorno, complimenti per la battaglia raggiunta per il canone TV. Passo alla. Quale battaglia? Che battaglia ho fatto? Sì, vabbè. Quello è Giannino, ma Giannino è stato eroico. Per primo ha dimostrato che era insulso appoggiarsi a un regio decreto. E questo mi fa dire che Uniti. Degli anni 30, fatto proprio nel 38, l'anno delle leggi razziali, per imporre il canone a chi ha il computer, dovrebbe essere incrementato a chi ha il computer piuttosto che porgli una legge. Quello è l'eroico Giannino, non abbiamo nessun merito in questo. Sì, va bene, l'importante è che si sia raggiunto. Eh certo. Ma noi oggi quale scopo vogliamo raggiungere? Sì. Oggi, adesso, in questo momento. Io ho tra 20 anni che ho fatto questo mercoledì delle ceneri e mi sono ripromesso di non mangiare più come sardo maialetto e arrosto. Per quanto tempo questo? No, questo sono partito 20 anni fa, non lo farò più. Ah, non ha più mangiato lupurceddu? No. Mai? Mai. Infatti alle feste faranno la ola in tutte mi dicono tu sei ricco, sei pazzo. È la cosa più buona che c'è in Sardegna da mangiare. Sì, è meravigliosa. E comunque faranno la ola in tutte le porcilaie dell'isola, sentendo quello che dice lei. Assolutamente. Una cosa aggiungo, che comunque la maggior parte dei sardi residenti autoctoni Il mercoledì delle ceneri lo stanno facendo da 40 anni. Adesso non si adegua, ma che vuol dire questo? Che c'entra? Cioè vuol dire soffrono, poverini, che... Sì, sì, noi infatti è una situazione veramente grave. Sì, è grave, tutto il mondo. Napolitano ieri e l'altro giorno... Sì, lo so che tutto il mondo... Ma faccia il Celentano anche lei questa mattina, adesso... No, giusto, no, sì, pardon. Scusi, no, però veramente, su, che c'entra? Questi sardi, poverini... Ma comunque molti, non più, né più né meno come il resto dell'umanità... hanno un'infinità di vantaggi, sì, anche essere sardi, e hanno anche qualche problema, giustamente, ma oserei dire l'isola era la loro, e l'uso che ne hanno fatto è in parte loro responsabilità, sa, non è che sono entità astratte, questo vale un po' per tutti. Ma siamo sicuri, mo, che sto mago non è un pregnaciaro? Ma pensate, quella cognata mia che era completamente frigida, gli è bastato solo un'occhiata sua magnetica, mo fa la mignotta all'aquila. Chi è? Ma che, stavi a dormire? Ma che a dormire? Stavo in estasi. Stavo a parlare con San Pasquale. Mi ha detto, porteranno da te una giovane femmina invasata dal diavolo maligno. Bravo, ci ha indovinato. Ah, vada retro, Satana. Oh, ma che fai, di nuovo? Mi scatti tu. Niente, ecco qua. Ma che sta a fare? A lotta con lo diavolo, no? San Pasquale di Bellone, protettore delle donne, qua un fantastico Buzzanca, alto con le tre stanzuole, cose che abbiamo visto ultimamente con grande successo in Rai. Ecco, la crisi di Buzzanca è una delle cose che più mi addolora. La decadenza di Buzzanca, vederlo poliziotto, carabiniere, tristanzuolo, è terribile. Buzzanca è stato un eroe della mia fanciullezza. Magnifico uomo fallo, insomma, in tutta questa cinematografia di questi anni. Qui siamo in San Pasquale Bailon, protettore delle donne, del 76 di Luigi Filippo D'Amico, che lo vede come una sorta di Rasputin burino a cui, appunto, in cambio di caciotte gli portano donne che magari hanno problemi. Cioè, le campagne erano piene di personaggi come lui. Si dividevano questo compito della diciamo sublimazione degli istinti delle contadine, appunto questi magoni che girano per le piazze a vendere medicamenti, e frati cercatori. Entrambi avevano questo arduo compito di pensare, diciamo, a risolvere i problemi della femminilità reietta, costretta dai mariti, dai padri, da animali veri e propri, a un ruolo subordinato. Poi arrivava il frate cercatore con il suo sacchetto un paio di volte all'anno, quando c'era raccolta la vendemmia, arriva naturalmente il venditore di unguenti. Melog, la realtà condivisa. La colpa è tutta dei partiti? No, amici, la colpa è solo vostra. I partiti all'inizio sono tutti in buona fede, perché nascono sotto la spinta di un purificante momento di chiarezza, che poi svanisce col subentrare di uomini sbagliati chiamati ad amministrare questi partiti. Ma dove sono questi uomini sbagliati? In mezzo a voi sono questi uomini sbagliati, in mezzo a voi del popolo, e voi non li riconoscete. Anzi, vi confondete con loro, perché voi per primi siete dei criminali e dei disonesti. Non avete voglia di lavorare e volete il divertimento facile, e incolpate i vostri capi che vi governano, pur sapendo che in loro si rispecchia la vostra criminalità e il vostro modo di essere. Il capo di un popolo è come il titolo di un libro, nel quale è racchiuso il significato di tutte le sue pagine. Per cui se io ho un libro fatto di pagine bianche, dove su ogni pagina non c'è scritto niente, il titolo giusto per questo libro sarà niente, perché solo con un titolo del genere è possibile rappresentare il significato di quelle pagine. Certo, ha dato uno spunto di radicale originalità nei testi di Celentano. Di quanti anni ha questo film? Questo è dell'85, facciamo un po', dico, quasi 30 anni fa. Più o meno fa. Dice le stesse cose che ha detto a Sanremo. Metafore convulse, insomma, come diceva Serra quando graffiava, qui c'è tutta la filosofia eterogale di Frate Indovino giocata al biliardo della via Gluck. E poi qui lui, appunto, si torna al discorso di prima, si presenta come messia John Lui, che arriva nel mondo, in un mondo invivibile e cancerogeno, poi muore in diretta televisiva, predica bontà e tolleranza, prima un po' una sorta di Savonarola, appunto, canterino, che poi si dissolverà e appunto si immolerà come il suo antecedente Cristo. Ma appunto forse il Cristo che ci meritiamo, forse l'attesa escatologica, anche è una sorta di messia dell'Auditel, che serve appunto proprio già prima per vendere sontuosi contratti pubblicitari, ed viene atteso ogni volta liturgicamente, perché l'Italia poi rimane sempre un eterno presente. Beh, l'evoluzione del venditore di balsami medicamentosi nelle piazze e di rimedi per la frigidità come Pasquale di Bailon oggi è questo. Oggi il luogo in cui si consumano lussurie è il luogo dell'apparenza. Infatti mi stanno stanno scrivendo moltissimi dicendo la nostra parrocchia è una cosa un po' vecchia, il parroco dice per Quaresima rinunciate ai social network, rinunciate a Facebook, rinunciate a Twitter, allocando da povero ingenuo parroco di campagna il luogo della satanica lussura nel luogo della comunicazione, dell'interconnessione. Oggi la condivisione è considerata luogo comunque in cui si esercita l'immodestia, il luogo dell'immodestia va censurato e quindi censuriamo la rete. Salvatore, buongiorno. Innanzitutto buongiorno, io credo che oggi con la vita che conduciamo parlare di mortificazione sia un po' relativo, perché la vita è un po' così mortificante. Le pensi 50 anni fa, che la gente non c'ha nemmeno la corrente elettrica nel nostro paese, era analfabeta, non c'aveva da mangiare, vivevano in delle stamberghe assieme agli animali, e che oggi cosa c'è di mortificante nella nostra vita? Ma innanzitutto il sistema di vita umano negli ultimi 50 anni è cambiato radicalmente. In che senso? In parecchi sensi. Prima, come diceva giustamente lei, 50 anni fa non ci proponevamo tante fisime, cioè non è che pensavamo a tanto, non avevamo TV, non avevamo radio, non avevamo mezzi di comunicazione. Era un grosso limite, secondo me. Grandissimo limite, però oggi con questo grosso limite che non abbiamo più, siamo, come dire, mortificati dal fatto che ci aspettavamo probabilmente di vivere, invece è soltanto una continua sopravvivenza. Personalmente posso peraltro dire che, avendo perso la fede 2 anni fa, credo di vivere una sorta di liberazione, quindi probabilmente era molto più mortificante. Ma come si perde la fede? Mi fa capire. Guardi, io sono stato in Terra Santa 2 anni fa. No, perché una cosa così precisa di solito funziona così: uno ha un'educazione religiosa, poi lentamente, crescendo, scema la pratica, scemando la pratica non è che perde la fede, ci pensa meno, poi magari quando invecchia comincia a venirgli qualche primo segno di coccolone, si ributta improvvisamente a ripensarci. Questo no, è l'iter normale. Non credo che sia così. Io non credo che sia successo questo così a me. Io sono stato 2 anni fa in Terra Santa per motivi miei spirituali. Quindi era profondamente convinto, non era un... Assolutamente sì, io sono andato a casa sua a trovarlo, ecco, questo è il gergo che io dico, sono andato a trovare Cristo e Dio... No. Beh, oddio, la casa di Dio dovrebbe essere ovunque, non è che c'è una locazione. Io credo che ogni cristiano dovrebbe almeno una volta andare in Terra Santa. Sì. E io ci sono andato per 15 giorni a fare il proprio pellegrinaggio. Mi sono reso conto che in realtà in Terra Santa proprio traccia di Cristo, di Dio, non esiste. Beh, ma questo perché l'ha messo in crisi la sua fede? Nel vedere... L'ha messo in crisi per un grandissimo dolore. Un grandissimo dolore. Non voglio essere io a convincerla, figuriamoci, poi lei rimane la sua idea, però onestamente è come quando vado a Assisi, io sono umbro, vado a Assisi, di tutto si può avere traccia meno che della spiritualità francescana, ma che vuol dire quello? Il tempo lascia comunque qualcosa che si avverte al di là degli orpelli esteriori. Lei cosa cercava? Cosa pensava di vedere? Qualcuno camminasse sulle acque? No, è un po' difficile. No, assolutamente no. C'è una grande macchina dove vengono i pullman con i turisti, li portano a vedere il sepolcro che è diviso fra 50 tribù di frati diversi, ognuno se ne prende un pezzettino e molte volte fanno bastonate fra di loro. Sono perfettamente d'accordo con lei, quello che ho visto interessante è solamente un grande business. In qualunque santuario le va vedrà un grande business, non è che si va lì a cercare il Padre Eterno, secondo me, ma poi ognuno fa quello che vuole, non lo so. Prego, ma continua ad andare avanti, cosa cercava? Sì, credo che appunto il martirio, il dolore ce lo portiamo ogni giorno dentro, sì, quindi... Lei potrebbe andarsi a fare un giretto in posti dove la gente soffre veramente, se vuole lì trova tracce palesissime di quello che cerca, vada in un'estrema periferia di una grossa metropoli africana, intorno a Nairobi, e vedrà che lì vede tutt'altro che business, ma senza andare tanto lontano, giri nelle nostre periferie, giri negli ospizi, vada a vedere chi dorme sotto le metropolitane, volendo ce ne sarebbe modo, mi sembra un po' facile, ma guardi, quest'attenda tutt'altro voglio far meno che il prete, visto che la mia qualifica che mi porterò dietro a vita è quella di libertino, di anima persa, si figuri se voglio millantare cose che non posseggo. però mi sembra che lei sta facendo un piantarello così, tanto per sentirsi commiserato che ha perso la fede. Non so se ce l'avesse quando c'è andato, ma non è nemmeno questo un male, si vive anche senza fede. Luciano. Buongiorno e complimenti. No, io volevo osservare che la sua interpretazione di Quaresima mi pare un pizzichino datata, perché questo discorso della mortificazione del datata, corpo... Scusi, no, il precetto non è datato. La ricerca dell'assoluto non è datata. Il no. Canone non è datato. No, ma la mortificazione del corpo... Perché datata? È un pizzico medievale. Ma perché? Assolutamente. Ed è figlia magari anche di una certa società, di una certa economia. Se lei vede già la differenza tra i cistercensi e i cluniacensi. Ma lei sta parlando di monachesi, non sto parlando di pratica aperta a tutti. Le scelte monastiche sono scelte diverse. La pratica dice che il giorno di Quaresima inizia un periodo in cui bisognerebbe mortificarsi. Poi uno può crederci, non crederci, farlo o non farlo. Ma la cosa che maggiormente detesto è l'interpretazione personale, individuale di quello che è comunque una regola. Può piacere o può non piacere. Grazie Sansonna. Grazie a te. A domani.